evidente che il governo Berlusconi non ha più la maggioranza in Parlamento e pertanto sarebbe opportuno che lui andasse immediatamente al Quirinale a rassegnare le dimissioni affinché il capo dello Stato, sentiti i gruppi parlamentari, possa individuare una personalità di alto profilo a cui affidare l'incarico e verificare se ci sono le condizioni per dar vita ad un governo di larghe intese che sappia essere un governo di ricostruzione nazionale capace di rassicurare i mercati e di tirar fuori dalle secche l'economia pubblica dell'Italia. Ecco Bocchino, qualche idea, qualche nome già l'avete? Ma i nomi sarebbe grave farli, spetta al capo dello Stato, abbiamo un capo dello Stato saggio, attento, sempre in grado di difendere le istituzioni e pertanto sicuramente riuscirà ad individuare la soluzione migliore. Poi spetterà a noi in Parlamento trovare le convergenze necessarie per fare in modo che abbia un'ampia maggioranza. Queste convergenze ci sono? Bisognerà ricercarle in Parlamento. Io immagino che i singoli parlamentari, quando si troveranno di fronte a questa scelta, faranno prevalere la loro coscienza. Si tratta di decidere se dobbiamo andare ad un'inutile campagna elettorale oppure se dobbiamo creare un governo che possa ricostruire la situazione economica d'Italia. D'altronde sinceramente non riesco a capire perché i parlamentari del PDL dovrebbero scegliere la strada delle elezioni che li porterebbero dalla maggioranza all'opposizione e ad una perdita almeno del 30-40% dei loro posti in Parlamento. Quindi la vostra idea è subito un accordo, subito un nuovo nome? Un governo di ricostruzione nazionale, affidare da parte del capo dello Stato ad una personalità di competenze riconosciute che possa tranquillizzare le istituzioni europee di mercati. Secondo lei quindi è deciso, Berlusconi comunque salirà al Quirinale nelle prossime ore? Le regole della politica dicono che dovrebbe salire al Quirinale, poi voglio dire, ci sono anche stati casi di gente che si è asserragliata, però voglio dire, poi si sa pure com'è finita.